24. La storia. Carissimo papà, come te penso che le sofferenze sono doni che nessun prezzo può comprare. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama. Il 12 maggio del 1995, a soli 47 anni, moriva Mia Martini, un'artista straordinaria, l'interprete di canzoni famosissime, la cui carriera è stata segnata, in parte anche distrutta, da una terribile calunnia. Quella di Mia Martini è stata un'esperienza umana e artistica, drammatica e controversa, fatta di grandissimi successi, ma anche di momenti molto, molto difficili. Noi oggi qui a Radio 24 vogliamo raccontarvi appunto la sua vita, la storia di una cantante, di una donna, di una voce indimenticabile. La gente sola, come cuore si consola, non far sì che la mia mente perde in concettore, in paura, inutilmente, e poi per niente. Quella di Mia Martini è stata una carriera lunga 30 anni, un'avventura di artista iniziata nel 62, quando il suo nome d'arte era Mimì Bertè, e lei aveva solo 15 anni. Dopo di allora sono venuti 17 album, 5 dischi d'oro, il primo premio al Festival di Yamaha in Giappone, un mese di repliche all'Olimpia di Parigi, 5 Festival di Sanremo, successi indimenticabili come Minuetto, Almeno tu nell'universo, Gli uomini non cambiano, Inno, Piccolo uomo. Ma come nasce il fenomeno Mia Martini? Sono nata a Bagnara Calabra, per volontà dei miei genitori. Mio padre insegnava greco e latino al liceo classico e mia madre era insegnante alle elementari. Vivevamo ad Ancona, ma ogni volta che mia madre doveva partorire, tornava in Calabria per rispettare un'antica tradizione. Era dolcissima, uno sguardo veramente attraente. Sapeva concentrare su di lei le attenzioni degli altri. Un rapporto con il padre complicato, controverso, che cambierà negli anni e segnerà la sua vita. Quando mio padre se ne andò da casa, avevo 11 anni. Ero troppo giovane e incosciente perché sentissi la sua mancanza. Oggi posso capire meglio. Quindi sono cresciuta con mia madre e con le mie 3 sorelle. Mimì Bertè, così la chiamano in famiglia, ascolta la musica alla radio, la ama e la fa ascoltare alle sorelle. La musica italiana diventa la protagonista della sua vita, canta alle feste, intrattiene il pubblico in alcune serate, finché con uno sciopero della fame convince la madre a farsi accompagnare a Milano per un provino. E per Mimì ogni canzone è una passione, un'interpretazione sofferta, e ogni volta che canta soffre. Lei soffre quando canta? Le soffre le canzoni che canta? Sì. Sì, questo è il mio guaio. Alle volte non mi accorgo che sto cantando davanti al pubblico e assumo anche degli atteggiamenti, so, perché vivo troppo la canzone. Il 6 maggio 1964 feci un provino in Rai e scrissero di me. Video giovanile ma banale. Voce un po' nasale ma incisiva. Stile moderno tipo urlatori alla Celentano. In quel genere ha una certa aggressività e può essere utilizzata. Le due concorrenti di questa sera e sono per i minorenni Mimì Bertè e per i maggiorenni Betty Curtis. Questo passaggio Studio 1, il grande varietà del sabato sera della Rai, è l'ultima partecipazione televisiva con il nome di Mimì Bertè. Era il 1965. Ma la sua carriera stenta a decollare. Mimì Bertè sembra una promessa non mantenuta. Le case discografiche non le affidano le grandi canzoni del momento che vanno sempre ad altre. Lei si trova emarginata nei cori per divi di successo. Fa addirittura la segretaria del sindacato dei cantanti. Per vivere vende i suoi lavori all'uncinetto nelle boutique. Poi lo scandalo. È il 19 agosto del 1969. La polizia arresta Mimì. Questo è il racconto. Ero in un night con amici sulla Costa Smeralda. Ci fu un'irruzione della polizia. Mi trovarono nella borsetta 35 mg di hashish e mi buttarono in prigione. 4 mesi di carcere a tempo Pausania, l'accusano di traffico di stupefacenti. Sono mesi terribili, è disperata, più volte le balenano in mente propositi di suicidio. Ha bisogno di un padre che l'aiuti. E scrive al padre una lettera che comincia così. Carissimo papà, le tue parole mi hanno colpito profondamente. Com'è giusto ciò che dici. L'avevo capito anch'io e dopo il primo periodo di disperazione ho sentito che tutto questo aveva uno scopo, ho aperto gli occhi e lo spirito. Come te penso che le sofferenze sono doni, su un prezzo può comprare. Tremo al pensiero di quanti, nella mia situazione, non sanno fare tesoro di questa esperienza e passano il tempo a compiangersi, senza saper leggere fra le righe. Non essere depresso, non sentirti triste, perché non sei solo, non lo sei più. Ora ci siamo ritrovati e io sono felice di riavere un padre. E che questo padre sia tu. Ti amo tanto, tua figlia Mimì. Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. Dopo 4 mesi di carcere, Mimì sarà prosciolta da tutte le accuse. Ma quell'esperienza naturalmente la segna e la segna per sempre. Mimì torna a Roma e cambia nome. Da quel momento, per tutti, sarà Mia Martini. Mimì per te non funzionava troppo. E allora ho incontrato questo signore, che poi è diventato il mio produttore, che aveva già manie internazionali. E allora mi ha detto, andiamo all'estero, però bisogna trovare un nome italiano che è facile da pronunciare e che è famoso, conosciuto. Guarda, all'estero di nomi italiani famosi ce ne sono 3. Gli spaghetti, il Martini e la pizza, scegli un po'. E io ho scelto Martini. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare, amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte sono tua. Un'incredibile voce italiana oggi qui a Radio 24, la storia di Mia Martini che continua dopo il break pubblicitario. Strade in diretta. Sulla 21 Piacenza-Brescia chiusa la diramazione per Fiorenzuola a causa di un mezzo pesante ribaltato. Chi proviene da Brescia e deve andare a Bologna prosegue in direzione Piacenza per poi immettersi in autosole. Ci spostiamo sulla 12, Genova-Livorno si rallenta per un cantiere tra Nervi e Genova Est in entrata a Genova. Traffico poi in aumento sulla 22 del Brennero con rallentamenti tra Verona e Rovereto in direzione dell'Austria. Condizioni meteo incerte al nord. Deboli nevicate sull'Appennino Ligure, poi fra Alta Lombardia e Alto Piemonte, ma al momento non si registrano particolari problemi. È tutto, a più tardi. Mix 24, la storia. Signori, a Salerno, Mia Martini. Siamo qui a Radio 24 per raccontare la bella e drammatica storia di Mia Martini. È il 1970 e inizia per la giovane cantante il trampolino di lancio verso il successo. A scrivere un primo LP esclusivamente per lei è un giovane e allora sconosciuto Claudio Baglioni. Nel 1970 io scrivevo canzoni solamente per me. Non avrei mai immaginato di scrivere canzoni per qualcun altro, tant'è che in seguito non l'ho mai fatto. Solo che Mimì aveva una curiosa storia, anche umana, una storia piena di tasti neri e tasti bianchi, di grandi contrasti. E allora le canzoni che vennero fuori furono scritte apposta, proprio perché c'era Mimì a cantarle. I temi sono forti, tra questi la religione, la solitudine, il suicidio. Oltre la collina è considerato oggi uno dei migliori album della discografia d'autore, ma la popolarità vera arriva con Piccolo uomo, scritta da Bruno Lauzi. Piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, voglio se mi lascerai. Agli inizi degli anni 70 la cifra vocale di Mia Martini comincia ad imporsi e da lì lei acquista subito un notevole successo. Il successo le era piovuto dal cielo, camminava per la strada e sentiva il jukebox con la sua canzone, entrava in un bar e ne sentiva alla radio il ritornello. Non era abituata al successo da hit parade. Poi qualcuno le ha detto, sei prima in classifica, e qualcun altro, hai vinto il Festival Bar. Il successo era una cosa a cui non era abituata. Sempre tu, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta a me se ti andrà, per una notte sono tua. Mia Martini insomma ce l'ha fatta. Nel 72 col Piccolo uomo scala le classifiche della Hit Parade. Vince il Festival Bar, vince il suo primo disco d'oro. Il successo si ripete con Minuetto. I primi anni 70 sono gli anni di Patti Bravo, di Marcella Bella, di Orietta Berti, di Vanzanicchi, ma a contendere la scena a Mia Martini c'è anche un'altra cantante che per lei è qualcosa di più di una collega. Si chiama Loredana Bertè, è sua sorella. Che rapporti sei con tua sorella, Loredana Bertè? Loredana, se fosse solo mia sorella sarebbe stupenda. Purtroppo canta. Quindi è una tua concorrente? Noi non siamo concorrenti nella realtà, è che facendo questo lavoro sono quelli che sono intorno a noi che ci fanno diventare il nostro malgrado due concorrenti, ed è brutto litigare in famiglia. Te possino da tante cortellate, per quante messe a detonarci. Le due sorelle Bertè sono belle, divertenti e conquistano il pubblico. Allo stesso tempo sono molto diverse. Molto più estroversa Loredana, molto più segreta la Mimì cantante e artista. Così, in un'intervista, le ritrae Caterina Caselli. Due persone diverse tra di loro, ripeto, almeno nell'apparenza erano sicuramente molto diverse. Forse le univa una certa malinconia, questo sì. E nell'una magari in maniera più visibile e nell'altra forse più nascosta. Loredana è trasgressiva, molto provocatoria. Le sue apparizioni televisive mirano di sicuro a provocare. La sorella Mia Martini è invece piuttosto appartata, schiva. Nel 1993 si esibiscono insieme al Festival di Sanremo. Due sorelle d'arte, Loredana Bertè e Mia Martini. Vediamo come sia, mezzanotte nella mano, di qua del cielo per tanto. Slaccia di pensieri dura, finché dura questa eternità. Stiamo come stiamo, usati di seconda mano, nel cuore un buio totale, l'unico innocente che sorride e fa i miracoli che fa. Due temperamenti diversi, due personalità diverse, due vite diverse, insieme non hanno il successo sperato. Il rapporto è sempre stato difficile, fatto di grandi amori e grandi distanze. Ma chi era allora davvero Mia Martini? Che cosa si celava dietro la sua immagine pubblica di cantante e di artista? Così Ornella Vanoni. Non si amava forse, però il canto la riscattava in tutto. Era la sua vita. Imagine this country. Niente mi dà la gioia che provo quando canto. Impazzisco di felicità, quando vedo la gente che se ne sta là, attaccata a me. In quei momenti tutta quella folla mi ama, mi appartiene. La musica è la vera ragione della mia esistenza. Tutto quello che Mia Martini canta è vissuto in prima persona, anche il padre lo conferma. In ogni sua canzone c'è sempre una parte della sua biografia. Nello stesso tempo si rendeva conto che lei aveva una sua missione. Difatti tutte le sue canzoni sono mirate al processo di liberazione della donna da tutto il contesto sociale. Secondo Claudio Baglioni, Mia Martini, anche quando rideva, cantava. Come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. E Mimì rideva moltissimo, era curioso perché neanche sorrideva, c'era una risata molto sonora. E quasi era una sorta di canto, devo dire che non ha mai smesso di cantare, nemmeno quando rideva. Una sua cara amica, Alba Calia, racconta che Mimì adorava essere riconosciuta. Adorava fare gli autografi, adorava stare di fronte a un pubblico, cioè le piaceva il suo lavoro, era felice di quello che faceva. Gli si chiedeva di dare di più in senso star, lei era imbarazzata e si metteva a ridere, cioè, diventava un gioco, cioè giochiamo a fare le dive, ma lei non si sentiva e non era per niente diva. Ma dietro quell'immagine c'è anche l'intensità di un artista che nelle sue canzoni interpreta gli umori e la sensibilità di un'epoca. Nelle canzoni di Mia Martini, infatti, emergono temi come il femminismo, il conflitto tra genitori e figli, l'omosessualità, la religione, la solitudine, la droga e la depressione. E del resto, a scrivere per lei sono tutti i più grandi dell'epoca, da Bruno Lauzi a Claudio Baglioni, da Antonello Venditti a Ivano Fossati. Nel 74, per i critici europei, Mia Martini è la cantante dell'anno. Lo straordinario successo italiano coincide anche con un buon successo all'estero. I dischi di Mia Martini iniziano a circolare in Israele, lei incide in spagnolo, in tedesco, in francese. Arriva addirittura a vincere uno dei più importanti festival in Giappone, il Festival di Yamaha nel 1977, e questa sua esposizione estera le permette anche di farsi notare da Charles Aznavour. Charles Aznavour dice: non sapevo che in Italia avevate una cantante così, e fa di Mia Martini una vedette dell'Olympia, il tempio della musica leggera internazionale. C'était comme une sorte de surprise. Maintenant nous allons Mia et moi chanter une chanson ensemble. Come abbiamo sentito dalle parole di Aznavour, Mia Martini è al culmine della sua carriera, ma in agguato c'è uno dei momenti più bui della sua vita. Mix 24, la storia. Rieccoci qui a Radio 24 con la storia della grande Mia Martini, incoronata, come abbiamo sentito, da Aznavour all'Olympia, il tempio della musica leggera internazionale. Dopo l'amore, noi non non siamo più soli. Dopo l'amore, respiri con me e restiamo così, solo noi a sognare. La vocalità di Mia Martini è molto jazzistica, molto vicina a certe interpreti nere americane di jazz, the rhythm and blues. Over me. Critica francese, Mia Martini è addirittura la nostra Edith Piaf. Eppure, proprio in Italia la sua carriera comincia ad avere qualche difficoltà. Il pubblico la ama, ma la critica sembra trattarla con superficialità e con approssimazione. Soprattutto, a poco, Mia Martini viene marginata anche nell'ambiente musicale. Qualcuno, infatti, mette in giro una voce terribile, un'infamia da cui è impossibile difendersi. Adesso in giro si dice che Mia Martini porta sfortuna. La mia vita era diventata impossibile. Qualsiasi cosa facessi era destinata a non avere alcun riscontro. E tutte le porte mi si chiudevano in faccia. C'era gente che aveva paura di me. Che per esempio rifiutava di partecipare a manifestazioni nelle quali avrei dovuto esserci anch'io. Mi ricordo che un manager mi scongiurò di non partecipare a un festival perché con me nessuna casa discografica avrebbe mandato i propri artisti. Eravamo ormai arrivati all'assurdo, per cui decisi di ritirarmi. Era all'inizio degli anni 70, alla vigilia della partenza di un tour fra Mimì e un gruppo romano dell'epoca. Così racconta Claudio Baglioni. Il gruppo che l'accompagnava, di tre musicisti, ebbe dopo una serata, tornando a Roma, questo concerto mi sembra che fosse in Campania, ebbe un incidente di automobile drammatico. Da quel momento in poi si cominciò a dire che Mimì portava sfortuna e veniva appellata con nomignoli indecorosi, insomma, sicuramente vergognosi. All'inizio è una voce locale, poi diventa un'etichetta dalla quale non si ha più scampo, come confessa la stessa Mia Martini nel libro di Menico Caroli. La disperazione è la follia. Costringe a vivere senza pelle. Se sopravvivi, diventi quasi invulnerabile. Devi solo stare attenta a non deludere più te stessa. Una delle conseguenze di questo meccanismo infame può essere quello di sviluppare una vera e propria depressione, che in alcuni casi più tragici può portare al suicidio. Gino Paoli dice di averla vissuta anche lui all'inizio della sua carriera. Che mi vestivo di nero e sto parlando di 40 anni fa e cominciavano anche con me a fare quel discorso lì. Ho picchiato due o tre persone, poi la iella gli è arrivata davvero e hanno smesso. Invidia che si scatena contro un'anima fragile senza pensare alle conseguenze, ricorda Claudio Baglioni. Devo dire che nel tempo ho visto quasi tutti fuggire, ma dalla stessa pronuncia del suo nome. Persone che poi nel tempo, quando lei ritornò, poi ricominciarono ad abbracciarla, ma questa è storia del mondo. Ho assistito a gente che faceva scongiuri, brutti segni, e ho litigato con tutti. E quella diceria, quell'infamia sarà il marchio che segnerà per sempre la vita e la carriera di Mia Martini. Anche nei rapporti umani, per lei, si insinua il velo della malinconia e dell'amarezza. Lo conferma lei stessa. Con questo lavoro ti trovi a conoscere tanta gente. Ma sono tutte conoscenze superficiali che non ha mai il tempo di approfondire, perché oggi sei in un posto, domani sei in un altro. E anche l'amore, che in fondo è il mio dramma, è la stessa cosa. Cioè ti ritrovi a un certo punto a dover per forza fare una scelta. E allora c'è un fondo di egoismo in tutto questo. Decido che la cosa più ovvia in fondo è rinunciare all'amore. Per cui non rinuncio al mio lavoro e a tutte le altre cose. Però dopo un po' mi accorgo che quello che pensavo che era la cosa più normale, in fondo è la cosa più sbagliata. Sarà che questo mondo ha rovinato tutti i sogni. Ma una grande storia d'amore, quella per la quale Mimì dà tutto e rinuncia a tutto, è quella con il maestro Ivano Fossati. Così racconta Adriano Aragozzini, patron per alcuni anni del Festival di Sanremo. Lei era innamorata pazza di Fossati. Mi disse una volta... E non so immaginare la mia vita senza Ivano. Anche se manchi tu. Io poi la incontrai dopo, quando tutto era finito, e devo dire che lei era un'altra persona. Io credo che essersi lasciata con Fossati sia stata una cosa a cui lei non ha potuto, ha cercato di reagire senza riuscirci. È il 1982 e Mia Martini approda al suo primo Festival di Sanremo con una canzone scritta per lei dal suo grande amore, Ivano Fossati. Ma neppure Sanremo riesce a liberare Mia Martini da quella calunnia così infame. E lei allora dice basta, ma lo dice a modo suo con un album straordinario, I miei compagni di viaggio, in cui Mia Martini interpreta le canzoni dei suoi più grandi amici e colleghi. Da De André a Tenco, da De Gregori a Fossati, poi John Lennon, Jimi Hendrix, Leonard Cohen. Dopo questo album per lei inizia un silenzio che dura per ben 7 anni, un silenzio che romperà solo nel 1989 con un altro Festival di Sanremo e un altro grande trionfo, Almeno tu nell'universo. Ora Mia Martini, Almeno tu nell'universo. È il grande ritorno, la rivincita di una voce sublime, così Adriano Aragozzini. Quando io organizzavo il Festival di Sanremo nell'89, si parlava di Mia Martini come di un'artista brava, sì, ma assolutamente da non scritturare o da non prendere in considerazione. Erano 7 anni che non potevo più fare il mio lavoro, per cui ho avuto dei momenti di grande depressione. E in quel momento ho sentito proprio... fisicamente questo abbraccio totale di tutto il pubblico, l'ho sentito proprio sulla pelle ed è stato un attimo indimenticabile. Come fosse. Io dissi chiaramente a tutti che per me contava la canzone. Se la canzone era bella, Mia Martini sarebbe entrata dalla porta principale al festival. Almeno tu nell'universo consacra il successo definitivo di Mia Martini e pone fine a uno dei periodi più bui della sua vita. Non vince il festival, ma viene insignita del premio della critica che oggi si chiama Premio Mia Martini. Nel 92 torna al Festival di Sanremo con un altro grande trionfo. Gli uomini non cambiano. Mia Martini. Questa canzone è dedicata a una sfida che prende alla gola la donna sin da bambina. Quando si innamora del padre, senza conquistarlo mai. Poi si comincia a sognare un uomo per tutta la vita, finendo per scappare col primo che arriva, che di solito ti tradisce con una bugia. Gli uomini sono sempre gli stessi, non cambiano mai. Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistare. conquistarlo e non ci sono mai riuscita. Una Mia Martini diversa, quella che a Sanremo canta Gli uomini non cambiano. È il 92, Mia Martini ha 45 anni, ma ormai Mimì è una donna segnata dalla vita, dalla cattiveria dell'ambiente. Neppure il calore del pubblico, che l'accoglie sempre con affetto enorme, riesce a guarire il suo dolore. L'anno successivo c'è un altro Sanremo, stavolta con la sorella Loredana, l'abbiamo già sentita all'inizio. Poi un duetto con Roberto Murolo. Sempre nel 93 Mia Martini si trasferisce a Gallarate. Per lei è arrivato il momento di vivere finalmente il rapporto con il suo padre, che se n'era andato da casa quando lei aveva solo 11 anni e che aveva ritrovato in occasione del suo arresto a Tempio Pausania. La sua carriera sembra di nuovo che stia per ripartire. Ma la cosa più importante di quel momento resta il ravvicinamento con il padre, una figura predominante nella sua vita. Ce lo racconta il padre stesso. Aveva bisogno di tranquillità e quindi una prospettiva di poter badare a se stesso. Mimì riesce finalmente a creare un rapporto bellissimo con suo padre. Si sentono tutti i giorni, ma la fine è ormai vicina. Questa è la testimonianza sofferta e drammatica della sorella Olivia. L'ultima volta che ci siamo sentite mi ha detto: come stai? Tutto bene? Il bambino cresce. E poi mi ha detto: dice Olivia, sono molto stanca perché ho lavorato tanto, non vedo l'ora di arrivare a casa per riposarmi un po'. E poi mi ha detto: non ti preoccupare se non ci sentiamo per qualche giorno, perché sto in cuffia che devo preparare il pezzo per il Festival di Napoli. E questa è stata l'ultima telefonata. Mi pare che era un giovedì, il pranzo, ho visto che stava male, l'ho accompagnata all'uscita di qui di sopra, mi ha baciato, mi ha salutato sempre così. Ciao papà. Domenica, la padrona di casa che mi fa: professore, Mimì non si sente. Io vado, vedo che con la toppa la chiave non funzionava e da qui mi sono allarmato e ho dovuto chiamare i carabinieri. E poi, non vi dico, hanno aperto e abbiamo trovato in pigiama Mimì sul letto. Mia Martini muore il 12 maggio 1995, ma il suo corpo senza vita viene ritrovato soltanto 2 giorni dopo. La procura di Busto Arsizio apre immediatamente un'inchiesta e dispone un'autopsia sul corpo dell'artista. Secondo il referto del medico legale, a causare la morte di Mia Martini è stato un arresto cardiocircolatorio. Il 17 maggio 1995 il corpo della cantante viene cremato. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di archiviazione dell'inchiesta. Sempre sarai sincero, e mi amerai davvero, di più. Mix 24, la storia. Tu non mi parli più, forse. Certo, se fossi al posto tuo, io so già che cosa ti direi. Da sola mi farei un rimprovero e dopo mi perdonerei. Luzzato Fegiz, critico musicale, inviato del Corriere della Sera. Ecco Mario, ma tu l'hai conosciuta bene Mia Martini. Sì. Chi era Mia Martini in 2 parole? Ma era una creatura molto determinata da una parte, molto fragile dall'altra. E la ha avuto questa lunga storia d'amore con Ivano Fossati, che l'ha abbastanza distrutta. Le ha fatto male. Ecco, ma la sua grandezza musicale invece qual è stata, secondo te? La sua grandezza musicale è una capacità di stare sul palco e di intonazione, di comunicazione col pubblico molto forte. Un canto melodrammatico, soprattutto quando faceva canzoni con riferimenti autobiografici. Si sa che la famiglia Bertè era, per usare un eufemismo, una famiglia quantomeno anomala, no? Tant'è, certo. Insomma, che di tre sorelle l'unica, diciamo, in qualche modo normale è quella che non fa l'attività artistica. Gli anni c'era un padre violento, cattivo, pur essendo un preside di scuola, un padre con un rapporto molto strano. Cioè, a un certo punto furono lasciati soli con la Salma il padre di Mimì, di Loredana, e Loredana. Dopo qualche minuto si sono sentite delle urla selvagge, persone sono intervenute, e c'era il padre che sbatteva, per tenerla per i capelli, la testa di Loredana sul calorifero. Accidenti. E quindi su una parete. Quindi cioè, c'è una grande sensazione. Una sensazione, violenza in casa. Sì. Esatto. Io poi devo dire, ma artisticamente stupenda, ho una mia teoria sulla sua fine, che non potrà mai essere dimostrata. Beh, la mia teoria è questa. Lei aveva un fibroma all'utero, diagnosticato circa un anno prima di questa morte, no? Il dottore le aveva detto: guardi signora, io le do delle pillole che però può prendere al massimo uno o due mesi per contenere, dopodiché lei deve assolutamente operarsi. Invece lei aveva paura di questo intervento, ha continuato a prendere per mesi queste pillole. Quindi io credo poco alla versione del suicidio o dell'overdose di cocaina, ecco. Però anche lì la fretta con cui è stata chiamata la Salma, gli esami tossicologici non fatti, cioè è un piccolo caso giallo. Ecco, parlando della mia invece artista, di quella grandissima artista che è stata, ecco, qual è secondo te la canzone che la rappresenta meglio o di più? Io direi due sono le canzoni che rappresentano di più: Padre Davvero e Minuetto. Ecco. Minuetto c'è un avvitamento della mia, perché è una canzone poi scritta proprio su misura per lei da Califano, no? Si sono incontrati, hanno parlato, lui è un uomo che capiva molto le donne, no? E allora un po' come succede nella canzone di Ruggeri, quella che non dicono, lui si è proprio immedesimato. E Minuetto è proprio questo uomo che la trascura, la maltratta, e questa si avvita sempre di più in un gioco che è quasi una compulsione di tossicodipendenza da quest'uomo, no? Quindi direi che è una canzone che lei racconta, è un avvitamento brutale. È una delle canzoni che la rappresentano meglio. Ecco, ma è quella calunnia terribile di essere una persona che portava sfortuna, ma questa cosa, perché? No, ma a me interessa, noi abbiamo raccontato come è nato, ma perché nessuno l'ha mai difesa? Ma prima di tutto non è vero, qualcuno l'ha difesa. Poco. Per esempio io l'ho chiamata Mr. Fantasy, sì. e ti assicuro che è stata una scelta molto coraggiosa, nel minimo storico proprio della sua carriera, però mi ricordo che i cameraman lavoravano... Bellissimo programma, tra l'altro, Mr. Fantasy. Perché l'altra indovina dov'era, certo. E lì c'è stata una serie di coincidenze, mi pare un cantagiro, delle auto incendiate, e qualcuno ha messo in giro questa voce, non si è mai capito chi, forse addirittura la sorella, no? Quindi Loredana. Senti... Mi sa che dicono che porti sfiga, perché poi lei era la bocca della verità, no? Quindi quella è stata una cosa terribile. Senti Mario, siamo in chiusura perché ci abbiamo 12 secondi, volevo chiederti, ma oggi c'è una Mia Martini nella musica italiana? No, non c'è una interprete femminile in attività, piena, in grado di unirci tutti sotto una bandiera. Lei era tra le quelle grandi, insieme a Mina, Milva, lei... Dobbiamo sperare nel futuro. Allora, grazie mille Mario. Prego, grazie tante. Ciao, grazie, ciao ciao. Ciao. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Ronchetti che si alternano in regia, e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.